Il punto di Stefano Folli. Quando si parla della concordia, l'enfasi e l'autocelebrazione dovrebbero essere accuratamente bandite. Quali che siano state le difficoltà tecniche, senza dubbio enormi, superate per il trasferimento a Genova, resta il fatto che quel naufragio a pochi metri dalla riva, i morti, le polemiche, tutto quello che ne è seguito, sono pagine tristi e imbarazzanti che hanno trasmesso nel mondo un'immagine drammatica dell'Italia. A maggior ragione sarebbe opportuno pensarci due volte prima di parlare di smacco inferto alla Francia, come ha fatto qualcuno. Il governo francese aveva sì espresso preoccupazioni per i rischi ecologici indotti dal recupero e dal traino del relitto. Lo aveva fatto con toni sgradevoli, mentre per fortuna tutto è andato bene. Ma non c'è nessuno smacco, nessuna vittoria da festeggiare. Lo smacco lo daremo al resto dell'Europa quando riusciremo a fare le riforme economiche, cioè quelle vere e non di facciata, quelle che servirebbero all'Italia per risalire la china. Quel giorno potremmo consentirci l'enfasi autocelebrativa che oggi, di fronte al rottame della concordia e alla metafora che esso rappresenta, non si giustifica in alcun modo.